Di nuovo al telefono con Cremona, eccoci, dici. Allora, eccoci, il corteo in questo momento è fermo perché da circa un quarto d'ora la testa del corteo è impegnata in un fronteggiamento con le forze dell'ordine, perché siamo a meno di 100 metri da quella che è la sede di Casapound Cremona. E c'è stato un lancio, un tentativo di sfondamento, credo, un lancio di oggetti, petardi vari. Ora l'aria, alla, i primi 50 metri dalla testa del corteo, l'aria è irrespirabile per il continuo lancio di lacrimogeni. Io mi sono dovuto allontanare perché non si respira. Comunque la situazione è questa, non c'è una tensione particolare, nel senso che, come vi raccontavo, c'è la testa che è impegnata in questo fronteggiamento, che in questo momento sembra che sia anche terminato, però, come stavo dicendo, l'aria è irrespirabile, i primi 50-100 metri del corteo sono praticamente avvolti da una nebbia di lacrimogeni. Va bene, immagino che questa sede di Casapound fosse blindata, no? Assolutamente. Sì, assolutamente. Insomma, qua capita per molto meno. Incrocio, diciamo che passava intorno alla via dov'è questa sede, a meno di 100 metri, e quindi si è creata questa situazione. Va bene, dai, allora tu respira, noi ci sentiamo tra un pochino. Sì, però comunque, come dicevo, no, tutto contenuto. Le forze dell'ordine finora, tolto un lancio massiccio di lacrimogeni, non hanno effettuato cariche. Perfetto. Limitano così a tirare lacrimogeni, a gasarci, e forse anche peggio. Dai, però questa è la battuta così, sì. Per alleggerire anche il clima, comunque sì, insomma. Sì, no, poi che sappiamo che quantità saranno in mani, visto che ormai non ne fanno proprio. No, non si riesce proprio a respirare per 100-200 metri si respira. Va bene, allora direi che ci sentiamo tra un pochino. Grazie. A più tardi. Ciao.